Effetto Mondo. School reopenings are a state decision. Period. That is the law, and that is the way we're going to proceed. Eccoci qui all'appuntamento con la nostra Giulia Crivelli. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Ecco, approfitto per sì. dire che oggi ci sono io, perché molti ascoltatori stanno scrivendo: che strana voce che ha oggi Alessio. Mi sembrava ridondante che non fossi Alessio, sono Maria Piera Ceci. Giulia, la scuola un problema non solo italiano, direi. Esatto, guarda, l'ho scelto un po' in tuo onore questo e io audio te ne ringrazio, ho notato la finezza. Erano le parole di Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, del Partito Democratico, lo specifico perché è una delle ragioni per le quali è in costante contrasto con il presidente Trump. Ma in questo audio, siccome Trump nei giorni scorsi ha minacciato tutti i sistemi pubblici, tutte le scuole pubbliche, soprattutto primarie e secondarie, le ha minacciate di togliere loro i fondi federali se non ubbidiscono al suo desiderio, più che al suo ordine, perché non il suo desiderio di riaprire tutte le scuole, e negli Stati Uniti l'anno scolastico inizia verso la fine di agosto. Andrew Cuomo aveva già risposto: io non accetto più minacce, ma ieri ha specificato, il presidente dovrebbe saperlo, la scuola è materia dei singoli stati, punto, period, e quindi decideremo sulla base delle guidelines che stiamo mettendo a punto. Credo che la ministra Azzolina si consolerebbe, perché così criticata, le si dice sempre che le linee guida sono arrivate in ritardo. Beh, quelle di New York arriveranno circa a metà di luglio, e poi tra l'1 e il 7 di agosto l'autorità centrale, in questo caso quindi Cuomo e i suoi collaboratori, daranno l'ok alle singole scuole. È un tema. Non sarà semplice per loro, davvero. No, certo, trova spazio su tutti i giornali, perché del resto, come accadrà anche in Italia e in tantissimi altri paesi, questo richiede dei costi. Bisogna comprare dei banchi di nuova generazione. È sulla prima pagina del New York Times. Però New York è interessante perché il distretto della città metropolitana di New York è il più grande distretto scolastico degli Stati Uniti, quindi sarà appunto una sorta di esperimento, come del resto è stato tutto il decorso della pandemia nella città e nello Stato, che peraltro adesso è riuscito a far crollare la curva dei contagi, delle persone in terapia intensiva, delle persone che muoiono. Quindi poi Cuomo in questa conferenza stampa naturalmente ha dato anche questi dati sì. positivi. Ci spostiamo in Gran Bretagna, che dici? Sì, l'ultimissima cosa volevo segnalarti dagli Stati Uniti, mi ha fatto molto effetto perché per ora secondo me in Italia non ce ne siamo ancora tanto occupati, è la fotografia sulla prima pagina del Wall Street Journal, perché il sindaco di Seoul, quindi non proprio dell'ultima città dell'Asia. Sì, una storia interessante quella, forse l'abbiamo trattato poco qui a Radio 24, quindi fai bene a ricordarla in questa sede. Comunque era scomparso venerdì ed è stato trovato morto. Tra l'altro era un sindaco, era già il suo terzo mandato, molto popolare, era tra quelli possibili per la candidatura alle presidenziali del 2022, è stato trovato morto. Non si capisce ancora se si sia suicidato o no, però poche ore prima di scomparire era stato accusato da una dipendente del comune di Seoul di molestie sessuali, e era stato fonte di grandissima agitazione, turbamento, esatto. Sì, no, hai ragione, spostiamoci. Gran Bretagna, vai. In Gran Bretagna, dove sì, anche lì è iniziata, chiamiamola fase 2, fase 3, comunque domani riaprono molti saloni, pedicure, manicure, le piscine, quindi sollievo anche lì, perché si sta tornando, tra virgolette, a una certa normalità, anche se poi sulla prima pagina del Times, quindi anche qui non proprio un tabloid, c'è una grande foto di Johnny Depp all'uscita dal tribunale, perché a Londra in questo momento si celebrano queste sedute del processo. Volano stracci insanguinati, potremmo dire. Il mito di Johnny Depp distrutto. Sì. vabbè. Qui, per esempio, appunto, una delle cose raccontate ieri è che lui si era tagliato cercando di stappare una bottiglia di vodka e con il sangue scriveva sullo specchio della camera da letto delle cose tremende sulla moglie. Ecco, questo è il livello Sì, livello delle rivelazioni su questo piuttosto basso, ménage. piuttosto basso. Esatto. Vai Giulia, che vogliamo fare? Ci spostiamo un attimo in Spagna o prosegui con la Gran Bretagna? Hai un sacco di cose da dire, scegli tu. Guarda, se vuoi sulla BBC ci sono due notizie. La BBC, insomma la TV pubblica che tanti prendiamo come modello, esattamente come la RAI riceve dei finanziamenti pubblici e esattamente come la RAI chiede ai britannici un canone. A differenza della RAI, trasmette molta meno pubblicità, questo ricordiamolo, e però Boris Johnson già in campagna elettorale aveva un po' minacciato la BBC di diminuire i finanziamenti e soprattutto aveva intimato alla BBC di non far pagare il canone agli over 75 e invece un po' nel silenzio, diciamo, nel congelamento da pandemia, la BBC è andata avanti a chiedere il canone a tutti e quindi si riapre questa questione. Ma c'è una curiosità, Questa è bella perché davvero, eh? Vai, insomma, racconta, mi ha adesso incuriosito molto. abbiamo appena celebrato il Pride, sappiamo quante aziende stiano cercando di essere più inclusive, di garantire di non discriminare le persone sulla base dell'orientamento sessuale. In Italia sappiamo è in discussione la contestatissima legge sull'omofobia, omotransfobia. La BBC, lo scrive il Times in prima pagina, consiglia a tutti i suoi dipendenti di firmare qualsiasi comunicazione mettendo il pronome di Cioè, preferenza, se quindi io vogliono dovrei essere scrivere definiti lei o lui, ognuno o lui, sceglie, lei o o se no lui. addirittura c'è chi vuole essere definito una moltitudine, quindi ci sono quelli che vogliono essere finiti Vabbè. they, perché non si sentono né uomo né donna né bisessuale, si sentono una moltitudine. Vabbè, E tempi che questo è cambiano appunto. e si fanno i conti anche con Sì. queste cose, è giusto così. Andiamo in Spagna, stavolta sì. La Spagna c'è un po' di Schadenfreude, cioè insomma, soprattutto sui giornali di centrodestra, viene considerata da tutti una sconfitta per il Premier Sanchez, la mancata Ci nomina sono presidente rimasti male. dell'Eurogruppo. Sì, la Razón, mi è piaciuto molto il titolo della Razón, che è la vincita dei pequeños, dei piccoli paesi, perché sappiamo che appunto il candidato irlandese era il candidato non dei grandi paesi dell'Unione Europea, ma per questi strani meccanismi di rappresentanza, alla fine comunque l'ha spuntata questo signore irlandese. Se abbiamo tempo, abbiamo qualche secondo della sua voce, le Sì. primissime dichiarazioni di Donoghue. As I begin my tenure as president of the Eurogroup, I'm deeply conscious that the citizens of Europe are looking at where their national economies now stand. Mi è piaciuto, credo che sia di buon auspicio perché le primissime parole sono state appunto, sono onorato di essere diventato presidente e sono molto consapevole che in questo momento tutti i paesi dell'Unione Europea sono preoccupati soprattutto per le loro economie Eh e che certo. quindi sarà, mi rendo conto che sarà più difficile del solito far avere una visione europea del futuro. Grazie, grazie a Giulia Crivelli che come tutti i giorni ci illumina su quanto scrivono e quanto riportano i media internazionali. Grazie anche a Jacopo De Franchi e Laura Faggini in assistenza in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata di Effetto Giorno in podcast su radio24.it. Un saluto da Maria Piera Ceci.